Piero dalla provincia di Forlì Cesena. Pronto? Buongiorno, ciao Tommaso. Ciao, tu non sei stato a Tokyo? Io vengo molto più vicino in Italia. Ah, ecco, sentiamo. Alfero, un paesino all'ombra del Monte Fumaiolo, sì? Che Mussolini, dovrei dire una stupidità, ma nel 22-23 spostò i confini della Romagna per incorporare in Romagna la sorgente del fiume Tevere. Ah, e quindi cosa fece? La tolse le Marche praticamente? No, la Toscana. Fumaiolo era sotto la Toscana. Mussolini, per fare la sorgente del Tevere sul Monte Fumaiolo, spostò i confini della Romagna incorporando il Monte Fumaiolo, che adesso il Monte Fumaiolo è Romagna, non è più Toscana. Ah, non è più stato restituito come la Gioconda, praticamente. No, infatti è quello che mi sto chiedendo. Come mai la Toscana, va bene per noi romagnoli, via. Non diciamolo, se non diciamo niente. Dai, siamo in pochi a sentirlo, rimanga fra me e te, via. Ma però domenica, sì? Il giorno di Ferragosto, sì? C'è stato un paio dei somali, dei ciuzzi. Ah, degli snelli, sì. È stata una cosa, non ho capito se chi era più somaro, il driver o a due zappe o quello qua. No, ma scusa, dimmi una cosa, Piero, sì. Li hanno trattati bene? Perché gli asini sono degli animali. No, loro quando si puntano è proprio il puntare, col bisogna cavolo fare che così. Andavano avanti, puntavano e il driver doveva scendere a tirarlo proprio, e lui col cavolo. Imparassero a fare era così. Più intelligente lui del driver, no? Certo, imparassero a fare così anche i cavalli del Palio di Siena, altro che cavalli morti. No, quella è una cosa, guarda, lo consiglio a tutti di andare a vedere, perché c'è da sbraccarsi, cioè i cavalli, vederli cadere ti si sparte il cuore, lì invece cadono i driver perché il somaro non ne vuol sapere, punta proprio, guarda, da... Una cosa eccezionale, veramente. In quel caso lì è proprio l'animale che comanda il driver, non è il driver che sforza l'animale. Esatto, se lui non gli va, non lo fa. E non lo farà mai. Lo fa. Per tutta la vita dalla parte degli asini, dei somari, alla dei grande, ciuchi. Alla grande, alla grande. Grazie, guarda, Piero. Anche se è uno fema, no. Parte dei somari. Ma è così. E viva i somari. Ma anche quelli umani. Grazie, Piero. Ciao. Ti ringrazio. Ciao. Okay.